Quindi se si schiaccia questo... Basta. Si qua così. Basta. Cominciamo? No, cominciamo. Basta. Basta. Basta. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, cari bambini. Siamo di nuovo in compagnia di Kappa e in compagnia di Drago per passare un felice pomeriggio insieme con la trasmissione Chiedo Asilo, l'unica trasmissione per i bambini senza bambini. Beh, due ce n'è. Questo è molto divertente. Ma intanto diciamo che ieri abbiamo parlato inutilmente per 5 minuti di una cosa che non esiste. Ma cosa? Non no, esiste come? L'eventualità che il primo novembre non sia festa. Non esiste. Se tutta la discussione di quest'estate si riferiva al 2012, per il 2011 le festività sono salve. Evviva! Sono arrivate montagne di mail per dirci. Viva, viva, viva. E quindi i morti possono stare tranquilli. Vabbè, più tranquilli di loro, no, voglio dire. E ora, bambini, ricreazione. Gildo, Gildo, siamo Black Block, siamo bambini, ma siamo Black Block, noi dobbiamo protestare per tutti i diritti che non ci riconoscono. Gildo, Gildo, ma è giusta sta... aspetta un attimo perché questa è una base che parte in un modo e finisce un altro, allora vai subito, vai con quella successiva, vai subito in attacco, ma e mantieni, questa è perfetta. Gildo, Gildo, tira fuori la bandiera, quella con su, la merendina, noi pretendiamo di averne un casino di merendine, anche scadute. Gildo, Gildo, siamo Black Block, ma tu non hai passamontagna? Io sì, allora ti hanno fotografato e poi va sul giornale, ma Gildo allora! Gildo. Ma Gildo non c'è. Ebbene, allora chi è che... La base, chi è che sta mandando la base? Ecco perché non tutto torna per quando c'è Gildo. Dopo qualche incertezza, dopo 10-15 volte, ingrana. Ma adesso qui... Allora, non ho detto di partire! Io non vedo neanche... Qui arriva un suono che non so da dove arriva. Allora qui... È qui un Black Block. È come un Black Block. Un nero, un blocco nero, no? E qui arriva delle robe che io... Arriva la base che io dovevo fare... E però, a questo punto, cavalco l'onda. E però vai, sei partito. Gildo, Gildo! Ho avuto un'idea! La prossima volta, porta tua madre, la signora Miffia, in manifestazione! Perché avere al corteo un adulto, può fare comodo perché si sta sicuro. E poi metti che quando tua madre si deve andare al bar per fare la pipì, allora a quel punto, e poi lei si ferma, e poi si siede per il caffè, io vedo che c'è lo spacco del coscia. Kappa, ogni tanto sui giornali c'è un'intervista a Ambra Angiolini che dice che adesso sta bene. Ma chi? Ambra Angiolini, te la ricordi? Quella di Non è la Rai. Sì. Adesso sta bene. E prima stava male. E che ne so, ogni volta dice adesso sto bene, quindi vuol dire che prima non stava bene. Sto bene. Però se vai a vedere l'intervista di un anno prima aveva già detto adesso sto bene. E così anche bene. 2, 3, 4 anni prima, fino ad arrivare a quando era Non è la Rai. Quindi non si capisce tanto se sta bene o non sta bene. Sì, però soprattutto non è molto interessante. Senti qui, cosa senti qui, senti qui cosa dice. La differenza è che prima ero infelicemente così, ora invece sono felicemente così. Ma così come? Non so, la traduzione è: la differenza è che prima ero infelicemente depressa, ora invece sono felicemente depressa. Ho capito. Capito? L'ha presa bene. L'analisi serve a quello, capito? Sì. Tu resti uguale, però sei più ottimista. Ecco, qui dice: sono consapevole delle qualità e dei miei limiti, non mi piace vendere fumo. E beh, vendere fumo è rischioso, eh? E poi diciamolo. Cosa? Ci si mette a vendere fumo quando proprio si sono già bruciate tutte le altre possibilità. Forse sì. Poi una come Ambra, mica può andare ai giardinetti a Brescia a far finta di pisciare il cane. La conoscono tutti, no? In effetti a Brescia Ambra. Se no potrebbe fare servizio a domicilio. Solo un ristretto numero di clienti, tipo, non so, capito, gli amici di suo marito, ma... quelli del tempo dell'oratorio. Sì, ma poi perché? Ma scusa, ma perché Ambra dovrebbe mettersi a vendere fumo, scusa? Forse perché adesso sta bene. Commercial. Specialists Inner Jokes. Allora, lanciamo una campagna tra gli amici commercialisti in ascolto. Siete sicuramente in tanti, allora, amici commercialisti. Sì, noi vogliamo allettare un po' il nostro pubblico, quello che sì. già c'è, quello di 35-50 anni che fanno i commercialisti. Allora, voi come tutti gli specialisti avrete il vostro gergo, i vostri inner jokes, il folklore interno. Bene, sì. postate sulla bacheca di Facebook di Chiedo Asilo delle barzellette da commercialisti. Ma come? No, ci sono le barzellette dei preti sul papa, sul celibato, sul sesso, sì, quelle robe lì. Ci sono le barzellette dei musicisti che sono sempre sui batteristi. Sì. Ci saranno quindi anche le barzellette dei commercialisti, capito? Vabbè, ma che barzellette saranno? Ma perché? Commercialisti, mi sembra già una battaglia persa. Ma non è vero, dai, forza, sì. dottori in economia e commercio, forza, ragionieri che vi appropriate indebitamente del lavoro ordinario dei summenzionati dottori in economia e commercio, forza, freschi esaminati statalmente e resi idonei, fate sfoggio di goliardia, che tanto ormai si è capito benissimo che il mercato con la M maiuscola è una cosa da ridere, quindi confermatecelo e fateci ridere, fateci vedere quanto siete simpatici. Ecco, bravo, hai fatto il pippolotto, però spiegami che cos'è, cioè dimmi qual è l'esempio di una barzelletta da commercialista, ma perché io magari non ho mai sentito. In ascolto sono un po' smarriti da questa. Io non me ne ricordo nemmeno una, però me ne sono inventata una proprio adesso, vuoi sentirla? Allora, c'è la moglie di un imprenditore che va dall'imprenditore e gli dice: caro, oggi devi aver pazienza con me perché purtroppo ho la PMS. La PMS, sindrome premestruale, in inglese è premenstrual syndrome. E l'imprenditore fa: ah, ci mancavi ancora tu con la PMS, io ho già la SRL che mi dà delle preoccupazioni. E l'hai inventata tu? Sì, io non sono commercialista però. Si vede. Beh, almeno ho fatto uno sforzo. Comunque, commercialisti, giovani e antichi, voi sì che sapete far meglio di me, quindi quindi fatevi sotto con i vostri Commercialists Inner Jokes. Le persone sarie. Quante persone sarie ci segnalate? Non ci sono più. Ma sì che ci sono, K. Devi cambiare il testo. Sono tutte andate. Sono tutte nelle liste dei nostri ascoltatori. Allora, guardiamo un po' qui. Nicky Vendola, Moni Ovadia, Mario Capanna, Monica Bellucci, Javier Zanetti. Ma, no, ma Maurizio, ma come, ma cosa? Monica Bellucci è una persona sarie. Ma infatti, no, no, dai, l'altro aspetta. Le persone sarie. Massimo Gramellini. Sì. Serie. Non ci sono. Enrico Vaime. Sì, però sono tutti un po' supponenti. Sì, però fa ridere, però è serio lui. È anche un po' uno che, insomma, le persone consapevole delle sue qualità. Margherita Hack, che è veramente sempre presente in tutte le vostre liste. Paolo Crepè. Ma Margherita Hack non era anche lei una, come tutti, che prima o poi succede che Margherita Hack, no, come Michael Jackson, Kappa, che non chiamare le cose alla gente. È morto. No, ma così vive più a lungo, no?